baciami stupido, baciami. Lei me lo dice guardandomi. Io sono qui, pallido, inutile. Baciami stupido, baciami. Lei me lo dice con quella bocca rossa perfetta, già me la sento addosso. Io devo farlo io. È vero, sono un uomo e l'uomo è cacciatore, ma io non so decidermi. Ma la sua bocca è stanca, è uscita dalla stanza. Timidezza, la mia è una malattia. Bastasse un'aspirina per mandarla via. Timidamente mi blocco sul più bello e scappa un'occasione che non tornerà. Baciami, cerco una donna che non mi guardi, ma che mi prenda e faccia tutto lei. Noi siamo difficili, abbiamo un'altra vita nel campo dell'amore. Noi siamo ridicoli, di giorno grandi geni, di notte tanti scemi. La mia è una malattia, bastasse un'aspirina per mandarla via. Timidamente mi blocco sul più bello e scappa un'occasione che non tornerà. Timidezza, e chiudo la canzone sperando sia servita a farvi svegliare. Timidamente io chiudo la canzone sperando sia servita a farmi svegliare.